E non è una cosa che faccio da solo, ma l'ho fondata insieme a degli amici e delle amiche qui a Bologna. E è un'associazione che è iniziata come all'inizio e anche adesso, ancora tuttora dopo quasi 10 anni, facciamo delle serate di condivisione, delle serate in cerchio, dove cerchiamo di coinvolgere rifugiati, richiedenti asilo, senza dimora, persone di diverse culture e condizioni sociali, e usiamo l'arte per creare amicizia tra le persone, tra persone diverse che di solito nel quotidiano non hanno la possibilità di incontrarsi. E invece appunto alle serate di Arte Migrante c'è questa opportunità, e l'arte è un po' il perno, quello strumento che ci aiuta un po' a metterci insieme. Quindi durante queste serate dove siamo in cerchio, prima le facevamo tutti mercoledì sera, poi adesso lo facciamo ogni 2 settimane il venerdì sera, ci mettiamo in cerchio e sono serate in cerchio di condivisione dove chi vuole condivide la propria arte, la propria cultura o un proprio vissuto. Quindi può condividere una canzone, una poesia, una danza oppure una storia di vita. E quindi è un incontro tra persone e molto, molto ricco, sia a livello umano che culturale che artistico. Avete una sede specifica dove vi trovate? E ci troviamo al centro Zonarelli, il centro interculturale Zonarelli, che si trova in via Sacco 14 a Bologna, vicino al ponte di Stalingrado. È un centro del comune che ci accoglie da più di 3 anni. Mentre siamo nati in via Massarenti 59, nella parrocchia di Sant'Antonio di Savena, che è una parrocchia molto molto attiva nel sociale, dove c'è un prete, Don Mario, veramente molto attivo, ha un'associazione che si occupa di tantissime cose, fa tante attività di volontariato per migranti, vittime di tratta, carcerati, eccetera. E quindi siamo nati là, in quel posto veramente molto accogliente. Adesso siamo nel centro del comune, anche il centro Zonarelli è un posto vivo, pieno di associazioni di diverse nazionalità, e ci accoglie 2 venerdì al mese. Come si fa ad accedere a queste serate di condivisione? Avete delle iscrizioni? Postate l'evento? Come? Sì, allora abbiamo una pagina Facebook, TikTok, e anche una pagina Instagram. TikTok. Perché da oggi anche Radio Città Fujiko è andata su TikTok, per cui attenzione, bisogna andare a seguire immediatamente. Lunedì prossimo, fra l'altro, avremo anche per Coxo Spaziale un bellissimo TikTok della radio. Ci dobbiamo vestire bene lunedì prossimo, esatto. Ricordiamoci. Esatto. Quindi siete su Facebook? Sì, abbiamo una pagina Facebook, Arte Migrante Bologna, e una pagina Instagram, sempre Arte Migrante Bologna, poi c'è un sito, artemigrante.eu, e comunque soprattutto su Facebook e su Instagram postiamo le date, gli eventi delle nostre serate, e la prossima sarà il prossimo venerdì alle 21. Si può venire a numero aperto? Siamo invitati, possiamo venire, dobbiamo prenotarci, dobbiamo scrivere pagina. No, basta venire, ci vuole il Green Pass. Certo. E la mascherina, cerchiamo di fare tutto a norma di legge. Ormai quello ci vuole dappertutto, sì. Anzi da oggi credo che ci voglia anche per andare nei negozi. Il Green Pass, sì. Io sono la persona meno informata su questi argomenti, sì, perché no, sennò sì. Mi viene mal di testa su infatti, tutte le... No, ma infatti no. Su tutte le nuove normative, insomma... Cerco di starne fuori, mi faccio informare da te, Stefano, infatti grazie mille. Perfetto, bene. Allora siamo a posto. Se ti informo il funzionamento del browser, l'ho rallentato da una pagina web. Ok, no, stavo cercando il sito Arte Migranti. Ah, eccolo qua, artemigranti.eu. Sì. Esce per primo proprio. Fantastico. Ottimo, grande. No, così dopo, perché da domani su www.coxospaziale.blogspot.com mettiamo il podcast della puntata, e così mettiamo anche i link, così tutti vi possono trovare. E grazie. Poi in realtà avevo aperto questo anche per andare su YouTube, e questo me lo dici tu, perché mia. Beh, andiamo su YouTube per dedicare una bellissima canzone a mio cugino. Questo non c'entra niente con te, non c'entra niente con Arte Migrante, però c'entra con il jingle, c'entra con il jingle che hai messo in apertura dell'entusiasmo. Oggi devi sapere, Tommaso, raccontavo prima a Stefano, che sono veramente molto molto contenta ed emozionata che è nato il secondo figlio di mio cugino e sua moglie, quindi benvenuto Guglielmo, benvenuto, sua moglie benvenuto. In questo momento ci sta ascoltando dall'ospedale di Sant'Orsola, dove è nel reparto Covid, quindi sta vivendo una di quelle cose, insomma, kafkiane in cui l'isolamento non ti permette di festeggiare con nonni, zii, parenti, amici, fratelli, chi ne ha più ne metta, l'arrivo di una nuova vita. Per cui gli dedicheremo una bellissima canzone. No, devi continuare ancora, perché qua YouTube sta andando ad una velocità pari a zero, che infatti secondo me faccio prima a metterla nel telefono, ad aprirmela col telefono adesso. Ma comunque parlate un altro po', aspetta, ecco. Che nel frattempo è arrivato il nostro unico ascoltatore. Chi è questa che parla, mi chiede? Sono mia. Oscar Moroni è rimasto un po' indietro, perché mi sa che la settimana scorsa non c'era e non sa che abbiamo una nuova fantastica co-conduttrice di Coxo Spaziale che si chiama Mia, che adesso che adesso lui continua a chiedermi chi è questa che parla. Ciao Oscar, sono Mia, sono la nuova co-conduttrice. E fra l'altro siete con, come si dice? Con Paesani, sei veneto anche tu, Oscar? Certo, assolutamente. Ecco, anch'io, trasferita qua a Bologna. E quindi niente, mentre facciamo queste ricerche ti faccio ancora due domande su questo incontro di venerdì. Per esempio, se io volessi venire, Green Pass, mascherina, in via Centro Culturale, hai detto in Zonarelli, Zonarelli. Via Sacco 14. In via Sacco sì. 14 alle ore? Alle 21 e poi... Cosa dovete portare? Entusiasmo, voglia di stare insieme, di incontrare gli altri. Ci sarà una serata, sì, diversa. Quella c'è senz'altro. Ci sarà un tema principale sul... No, di solito diciamo è molto libera. Chi vuole veramente può portare, prepararsi qualcosa, una canzone, una poesia, leggere qualcosa o far fare un gioco. Sì, diciamo veramente un tempo, cioè prima del Covid facevamo anche le cene insieme, quindi c'erano delle cene multiculturali con cibi da tutto il mondo. Certo. Adesso sì, non evitiamo questa parte. Certo, dovremo aspettare di nuovo l'estate. Sì. Quindi ognuno può portare qualsiasi iniziativa artistica, sì, creativa, ma anche, e la condividiamo. Non so, altre associazioni che vogliono venire a parlare, di mettersi in rete o condividere iniziative, facciamo anche incontri veramente, cioè di solito vengono anche gente di altre associazioni. Arte Migrante, diciamo, è anche un momento, siamo un APS, diciamo da pochi anni siamo un'associazione formale, ma di fatto siamo un gruppo informale che è anche rete tra varie realtà. Ok, ci piace questo. Certo, tu porterai qualcosa venerdì, porterai una delle tue canzoni? Sì, appunto, io mi diletto a fare il cantautore e è un po' la mia passione. Vengo da una famiglia di musicisti, mio zio, i miei zii, mio nonno era cantastorie, contrabbassista, e il mio bisnonno era cantastorie, mio zio. Wow, una famiglia di cantastorie. Il mio bisnonno era un cantastorie, mio nonno era contrabbassista jazz. Wow. Mio zio è batterista jazz, no, un altro zio. Sì, poi un papà ogni tanto ci sta uno stacco generazionale. Sì, ho un papà anche chitarrista e fa chitarra a mano, liutaio. Ma quindi dai. Vengo da una famiglia. Una famiglia musicale. Sì. Ho anche una cugina speaker radiofonica. Fantastico, la salutiamo allora. Sì, salutiamo Marta. E invece siamo pronti per ascoltare il pezzo per Guglielmo, che è un po' patetico, però è bellissimo, è bellissimo. In realtà dillo Stefano che la sai a memoria. Lo parto direttamente da YouTube, sappiatelo. Thank you. che sono verdi gli alberi e a rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in anima. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è in anima. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Se non sbaglio è dell'anno del Millennium Bug, questa canzone del 2000, no? Sì, mi sembra 2008. No, che 2008, 2000, l'ascoltavo a New York. È per te. Boss 1999 addirittura. Che Natale stai leggendo? Ah no, infatti c'è scritto. Allora, 1999, il primo singolo estratto dall'album Lorenzo 1999 Capohoan. Ok, 1999 quindi? 1999. Allora, adesso ho delle domande per te, Mia. Allora, no, dice Oscar Moroni, dice chi è che questa che parla? O che, perché me l'hai tenuta nascosta? Questo lo dice a me. Quanti anni ha? Veneta di dove? E poi mi scrive: non si sposa più nessuno, proprio questa si deve sposare. Vabbè, no, Oscar Moroni è. No, io gli ho solo detto è sposata, per cui non scocciare come al solito. Ma certo, Oscar, lo sai, ho conosciuto l'uomo più bello del mondo, mi sono innamorata immediatamente e me la sono sposata. Capito? Per cui prendi e porta a casa. Comunque un gran pezzo è questo, in fondo. Sì, devo dire che. Grazie. L'avevi sottovalutato perché era da tanto che non l'ascoltavi, dimmi la verità. Erano solo quei 20 anni, dai. Esatto, no, invece grande Giova, questa canzone era per te, Virginia, Checco e Guglielmino. E soprattutto Guglielmino. E Guglielmino, Guglielmino, benvenuto a Bologna. Ho finalmente un cugino bolognese, posso dirlo, perché mio cugino è veneto anche lui. Ok. E però ha sposato una bolognese, come me che ho sposato un bolognese. Bene. E adesso avremo un nato a Bologna che quindi. Tutto un pezzo di stirpe bolognese. Ormai sì. Ormai ha, diciamo, battezzato questa unione Veneto-Bologna, e questo era l'angolo, scusaci Tommaso, in cui abbiamo preso un po' di sentimentalismo e un po' di emozione. Insomma, ci sta a festeggiare anche queste cose quando succedono. Certo. Allora, ci stavi raccontando di Arte Migrante. Ah, che fra l'altro stavo guardando il sito e sei tu che parli di Arte Migrante. Cioè, appena entri sul sito ci sei tu, con i capelli un po' più corti, sei leggermente più... con una giacchetta un po'... Un anno in meno. Ok, in effetti da quanto tempo ci sei dentro Arte Migrante? Ma è una tua invenzione oppure esisteva già? Sì, l'idea è mia, una mia invenzione. Però veramente, cioè, i sogni non si fanno da soli, ma solo insieme. E sì, ho avuto l'idea, ma ho avuto tanti amici che hanno partecipato all'idea e abbiamo costruito insieme. Eravamo 12-15 persone all'inizio e poi adesso, tra l'altro, diciamo, ogni gruppo di Arte Migrante, ci sono diversi gruppi, non siamo solo a Bologna. Dove siete? Sì, è nata poi anche, vabbè, un po' in tutta l'Emilia Romagna, siamo in Modena, Reggio Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, a Imola, e poi siamo anche nel Piemonte, a Torino. Ma fate anche opere d'arte condivise, cioè lavorate insieme su un, che ne so, fate un murale insieme, fate cose insieme. Facciamo anche spettacoli, diciamo, okay. Spettacoli, cioè abbiamo dei gruppi teatrali, per esempio a Parma abbiamo una compagnia teatrale, si chiama Teatro Migrante, molto, molto forte, molto in gamma. E anche a Torino abbiamo fatto spettacoli teatrali, a Padova, il gruppo di Padova, abbiamo una band musicale. E siamo anche a Palermo, siamo anche a Cagliari, wow. Siamo veramente da Trento a Palermo, diciamo, siamo in tutta Italia. Da Trieste in giù, come dire. Siamo anche a Trieste, ecco, uno degli ultimi gruppi. No, tra l'altro sabato vado a trovare i ragazzi di Trieste che fanno un'iniziativa. E ogni gruppo fa questi cerchi di condivisione dove si coinvolgono appunto persone di diverse culture, diverse condizioni sociali. E lo scopo è combattere il razzismo, l'indifferenza. E creare una cultura d'accoglienza, di incontro che vada oltre i pregiudizi e che incontri veramente l'essere umano con tutte le sue bellezze, talenti e ricchezze che ha. E poi siamo andati anche all'estero, quindi anche in Europa, sì. Siamo a Marsiglia, siamo a Cipro. Grande. E siamo. No, tra l'altro sto guardando le immagini sul sito e sono murate di gente che si diverte un sacco. Sì, cioè, presumo che col Covid sia un po' un casino. Sì, il Covid ci ha smorzato parecchio. Sì, anche perché la nostra iniziativa si basa sull'aggregazione di persone. Infatti. Quindi immaginate il Covid. Esatto. Cantare, ballare insieme. Santo Zoom ci ha salvato la pelle perché grazie a Zoom siamo riusciti comunque a incontrarci online. Abbiamo fatto incontri bellissimi da remoto. Certo, però ci ha veramente... anche tra diverse città, tipo anche da, non so, Bologna, Marsiglia, Trieste. Sì, sì, poi la cosa bella di Zoom è che ha permesso di farci incontrare, far incontrare persone di gruppi diversi che con la questione delle distanze geografiche non si sarebbero incontrate. Certo, quindi certo. Comunque si è creata, ha dato opportunità di incontro tra gruppi di città diverse, quello è stato molto bello. E poi sì, cerchiamo di fare tutto a norma adesso, grazie a Dio siamo riusciti a tornare un po' all'aperto, un po' con le mascherine. Com'è che si apre un centro di Arte Migrante? Cioè tutti questi centri di cui ci stai parlando, sì. Che sono quanti? Una ventina ormai? Siamo, allora, diciamo, per nascita 35. 35 gruppi, però diciamo attivi una ventina. Sì, ok, sì, attivi siamo una ventina. Perché ogni gruppo ha alla base un coordinamento, diciamo. Se uno vuole iniziare Arte Migrante in qualche città, potete farlo, ci contattate, anzi... È tipo un franchising, bisogna pagare, come la facciamo? No, è semplicissimo perché non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di... Cioè, ha bisogno solo di un posto che ci accoglie gratuitamente e qua già comunque... Già comunque... Non è che ne piovono no. i posti che accolgono... No, però devo dire che grazie ai comuni sensibili, alle realtà parrocchiali, realtà associative, certo. presso cui ci appoggiamo, veramente c'è tanta generosità. E poi, quindi non servono tanti soldi e la cosa che serve è soprattutto la voglia di mettersi voglia, in gioco. È un gruppo organizzativo, dietro ogni gruppo di Arte Migranti ci sono 5, 6, 10 persone che coordinano e organizzano le serate, organizzano spettacoli, organizzano iniziative, perché noi facciamo veramente tante cose, facciamo anche laboratori. Certo, e le persone dove le trovate? Cioè trovate un centro che vi accoglie, e sì. Dei coordinatori e poi le persone, sì. Gli invitati? Fate sì. Tutto sui social? Oppure... No, anche per esempio andiamo, sì, ci mettiamo in contatto con cooperative sociali, oppure molti di noi fanno volontariato con Senza Dimora, fanno volontariato con insegnando italiano agli stranieri, cioè cerchiamo di incontrarli anche, di invitarli. Certo. Di invitare tutti, comunque tutti e tutte sono invitati a Arte Migrante, cerchiamo di coinvolgere più gente possibile. Nel frattempo, se volete scrivere alla diretta, il nostro numero è il solito 333 180 94 94, potete fare anche domande direttamente al nostro Tommaso che vi racconta tutto come funziona. Ma dunque, se io sono un migrante, come faccio a scoprirvi? Passa parola tra di loro? Sì, a volte anche passa parola, sì. E poi, no, perché voglio dire, trovare qualcuno comunque che ti accoglie e che magari ti fa anche divertire un attimo, presumo, sì. Per qualcuno che magari è arrivato da poco a Bologna e non conosce bene la città, cioè, è una bellissima accoglienza, è una bellissima cosa, sì, diciamo, molto funziona per passaparola, anche per la lingua, cioè arrivi in un'altra, certo, città, magari non sai bene come muoverti, dove muoverti, come parlare, come rapportarti, trovare delle altre persone che un po' ti orientano è comunque sempre essenzialmente una gran cosa. Sì. Infatti Arte Migrante è anche un modo, c'è un luogo dove si impara l'italiano, dove si conoscono, sì, persone, magari c'è anche il ragazzo studente che viene da un altro paese europeo, che viene a fare lo scambio oppure viene a fare l'Erasmus, non conosce nessuno, è appena arrivato a Bologna e trova un gruppo di amici, perché Arte Migrante veramente diventa famiglia, diventa gruppo di amici anche per persone poi soprattutto sole, come veramente Senza Dimora per esempio, veramente sono spesso lasciati soli fuori dai giochi, dalle cerchie sociali, certo. O anche sì, tutte le persone che vivono nei centri di accoglienza. E poi ognuno di noi, parlando dei migranti, l'antropologo, cioè, ognuno è migrante in verità, certo. Cioè anch'io sono emigrato da Latina, ecco l'antropologo che esce fuori e che becca comunque tantissimo, sì, anch'io, io da sociologa, Stefano, posso dire che quando mi ha detto che è antropologo ho detto wow, ci sta, e anch'io sento che questa migrante, chi non è migrante? Chi non migra da un posto all'altro, se ci pensi. Ma forse Oscar Moroni non è migrante. Detto questo, andiamo con questa cosa qua. Spaziale. Che famo stasera? E storia. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Anch'io ascolto Coxo Spaziale mentre lo sto facendo, di solito è difficile che mi tappi le orecchie. No, dicevamo, dimmi. No. mi hai guardato con una faccia agghiacciata. No, perché non mi ero resa conto che eravamo tornati in diretta, quindi mi sono sentita un attimo, ok? Io naturalmente faccio con nonchalance, lascio tutti i microfoni aperti come al solito. No, dicevo che questa cosa qua è in realtà un procedimento piuttosto semplice, no? L'idea di fare delle serate in cui ci si diverte, ci si conosce, si fa arte insieme, eccetera. Però per uno che viene da fuori, cioè Bologna non è che, cioè sì, è una città accogliente, io lo dico da bolognese, ma non poi così accogliente, capito? Sì. E in effetti immagino soprattutto le persone di colore che vengono a Bologna non si sentono benvenute molto spesso, no? Non hanno tutte queste possibilità di sentirsi accolti, mentre invece quello che fate voi, che è una roba semplice, penso che sia una bella differenza per alcuni di loro. Bellissimo. Tu hai notato, sì. C'è Tommaso che dice qualcosa con gli occhi, dicelo. Cosa? No, voglio dire che è tipo un raduno tra amici, in verità, certo. Amici. Però un po' più strutturato, quindi è veramente una cosa semplice. Poi le relazioni umane sono veramente una roba innata, che, cioè, nel senso, e quindi non bisogna essere per forza artisti, ecco, ci tenevo a dire che non bisogna essere per forza artisti o artiste per partecipare a Arte Migrante, ma basta venire, mettersi in gioco, ascoltare, ecco, cioè, è importante anche chi ascolta, chi viene lì anche solo per ascoltare, per fare amicizia, per per incontrare, quindi sì, se non fatevi l'idea che è solo un raduno tra artisti, ma poi è bello perché c'è chi sa suonare la chitarra, chi sa cantare, chi sa ballare, chi sa recitare, e quindi veramente si ascoltano e si sentono e si vedono cose. Ma pittori ne avete? Pittori, scultori? Sì, c'è un sacco di gente anche che disegna. Poi abbiamo degli illustratori eccezionali, abbiamo un illustratore che ci aiuta e fa un sacco di locandine belle. Ma disegnate. Poi fate anche un workshop, giusto? Sì, facciamo anche laboratori. Ecco, un'associazione con cui collaboriamo molto a Bologna è l'Antoniano, dove fanno lo zecchino d'oro. Capisco. E c'è anche una mensa storica dei Senza Dimora, gestita dai francescani e da un'associazione appunto che gestisce. E che è l'Antoniano. Sabato scorso sono passata e ho conosciuto Etienne, fra Etienne, sì, è un frate molto attivo. Salutiamo Etienne. Bonsoir Etienne. no, ha un nome francese ma è albanese. Ah, vedi? Allora, no, non so come si però dice. Però sì, il nome. Buonasera in albanese, perdonatemi. E niente, no, con l'Antoniano organizziamo da quasi 7 anni dei laboratori. Però che facciamo insieme all'Antoniano. L'Antoniano si occupa di tantissime cose, sia a una mensa per i senza dimora, ma anche a delle accoglienze per i richiedenti asilo, famiglie in difficoltà, e si occupa sì, di diverse cose, e tra cui appunto ci coinvolge con Arte Migrante. Da 7 anni facciamo i laboratori migranti, si chiamano, e praticamente ci sono 50 volontari, 50-60 volontari che ci supportano, ci aiutano, e facciamo diversi laboratori di diverso tipo, sia di formativi tipo italiano per stranieri, inglese, informatica, teoria della patente e ricerca lavoro. Certo. E poi anche artistici, quindi facciamo danza africana, teatro. Il teatro lo facciamo in collaborazione con una compagnia che si chiama Collettivo Hospites, una compagnia di Bologna molto in gamba. E poi c'è un laboratorio di orto, abbiamo l'orto dentro l'Antoniano che curiamo, e i prodotti dell'orto poi vanno alla mensa. Ottimo. Avete anche calcio, ho letto. Sì, anche calcio il sabato mattina. E facciamo calcio interculturale, facciamo italiano per stranieri, sì, arabo, anche arabo, facciamo arte terapia, ecco, parlando di arte, facciamo arte terapia, facciamo fumetto, e facciamo argilla. Bello. Sì, veramente tante attività. I corsi sono gratuiti? I corsi sono gratuiti, sì, lo stile è lo stesso di Arte Migrante, anche dell'Antoniano, diciamo. La gratuità, sono gratuiti e sono inclusivi, aperti a tutti, non c'è bisogno di iscrizione, però anche lì cerchiamo di rispettare comunque tutte le norme. C'è un numero massimo di partecipanti in questo periodo? Sì, cioè, nel senso, in questo periodo sì, e soprattutto per i laboratori, tipo facciamo anche yoga e danza, che si tengono al chiuso, lì c'è un numero limitato e anche ci vuole il Green Pass, eccetera. Tantissime sì, cose veramente da e cucina, visto che avete l'orto, fate anche qualcosa di cucina? No, perché vabbè, la cucina è molto impegnata per la mensa, e anche se l'Antoniano organizza delle iniziative tipo dei corsi di cucina, mi immagino quanto bello sarebbe fare dei corsi di cucina multiculturali, immaginare un menù che parte da un antipasto, non lo so, calabrese a un primo piatto francese, un secondo non so, senegalese, dolce, arabo. Sì, ci sarebbe. No, ogni tanto, quando facciamo le feste, sì, accade questo. Ogni tanto facciamo delle feste grandi per un po'. Anche mettere in gioco i laboratori che durante l'anno fanno attività, e lì c'è un buffet multietnico, certo, dove cucinano anche le famiglie accolte dall'Antoniano di diverse nazionalità, dove si può veramente spaziare tra profumi e sapori di tutto il mondo. Sì. Vi devo interrompere, tu non lo sai, Mia, perché no, cosa è successo? Noi abbiamo una rubrica che si chiama così. L'angolo della menzione. Che la settimana scorsa non abbiamo avuto perché non c'era niente da menzionare. Invece venerdì 4 febbraio alle 21, oltre ad andare al laboratorio dei migranti, si può anche andare a vedere Marmo, meccanismi armonici acoustic set, alternative rock folk. Bello, dove? Live con un set acustico in versione trio. Questo è a Gallery 60, Gallery 16, in via Nazario Sauro 16. E a seguire, molto DJ, a seguire Selecta by Devil DJ. Voilà. Mentre invece sempre a Gallery 16, che io chiamo 16 ma secondo me si chiama Gallery 16 perché è così, è sempre sabato alle 21 appuntamento con Extravaganza Night by Gianluca Belisario e Tetro. Ovvero l'idea di Gianluca Belisario è quella di offrire al pubblico da scegliere i 45 giri da fine anni 70 a fine anni 80 della propria collezione privata, una sgangherata selezione di 475 pezzi che offre classici wave, synth pop, italo disco, new beat, eccetera, pezzi di gran spessore accostati a hit sciocche, ma con un perché, il tutto posto in un frullatore interattivo dove niente è prestabilito. E questo è sempre a Gallery 16 e sempre sabato alle 21 e sempre in via Nazario Sauro 16. Naturalmente da domani troverete su coxospaziale.blogspot.com tutti i link per scoprire tutto quanto. Dopodiché domenica 6 febbraio alle 18:30 abbiamo la presentazione del libro di Ilenia Caleo, Performance, Materia, Affetti, una cartografia femminista. Dialogano con l'autrice Fiorenza Menni e Piersandro Di Matteo, e questo invece è presso Ateliersi in via San Vitale 69, sempre naturalmente a Bologna, domenica alle 18:30. Basta. Queste sono le tre menzioni che avevo. La prossima volta preparati perché te ne faccio leggere qualcuna anche a te. Va bene, ma mi è piaciuto un sacco questo stacchetto anche di batteria, di orchestra per dividere. È un'invenzione di Fedra che salutiamo e che esiste appunto da 10 anni, perché Coxo Spaziale quest'anno compie 10 anni. Wow. 10 anni, come insomma qua tutti i vostri progetti hanno 10 anni, mi sembra. Infatti. Bello, bello, bello, bello. Grazie Fedra comunque, perché mi piace un sacco questo stacchetto. Dopodiché non lo so, vogliamo mettere un pezzettino? Sì, dai, sì, mettiamo un pezzetto. Mi è arrivato la settimana scorsa, non sono riuscito a metterlo. Un pezzo che si intitola Give Thanks, e questo perché devi sapere che quando uno fa radio, poi la gente gli manda, cioè ci sono un paio di, no, tre o quattro uffici stampa che mi mandano, che delle mi mandano canzoni. Musica, sì, ma sì, musica che esce, sì, sì, esce da poco. E c'è questo Boom Rush Promotions, loro sono tedeschi, ma fanno soprattutto musica reggae, e mi mandano dei gran pezzi, tipo questo di Joe L che si chiama Give Thanks, e che forse parte, ecco. No, dico, comincia Sanremo domani, me lo stavo quasi dimenticando, per cui io venerdì non vengo a fare la serata migrante, mi dispiace. Ma dimmi la verità, Tommaso, ci sarà la serata migrante venerdì o siete tutti a vedere Sanremo? No, Sanremo alla serata migrante? Anche se no, alcuni di noi poi guarderanno Sanremo le altre sere, ma quel venerdì... Sì, anche perché il venerdì, se non sbaglio, è quello delle coppie, no? Delle cover, credo che sia quello delle coppie, non mi ricordo, perché cioè, io sono un guardatore di Sanremo molto distratto. Infatti stamattina su Facebook l'Arianna Romagnoli, che saluto, mi ha scritto: cavoli, comincia Sanremo, siete pronti? E io ho scritto no, non sapevo che fosse questa settimana e non ero pronto per niente. Adesso stasera mi sto preparando. Non so se voi siete pronti. Tu, Mia, zero. Hai mai guardato Sanremo? No, allora, io non ho mai guardato Sanremo in vita mia. Anche perché però... hai un nome molto sanremese, lo sai. Però volevo dire questa cosa, che da quest'anno pare che le co-conduttrici verranno chiamate finalmente co-conduttrici, non vallette. Ah, cazzo. Questa cosa, io da femminista, questa cosa l'avevo un attimo seguita dell'anno scorso, che c'era... era uscito questo articolo in cui si diceva che le vallette sono, cioè, è una delle cose più patriarcali in assoluto della storia del mondo Sanremo, sì. Capito? O no? Sì, no, però già, no, tra l'altro sì. Hanno fatto una roba in passato di avere il valletto maschio e di chiamarlo valletto, che non spiaccica una parola, che mi sembra quasi peggio, capito, che non averlo, cioè una roba spaventosa. L'hanno messo proprio lì per cercare di fare il politically correct. Esatto. Se non fosse, voglio dire, non è che dici, non lo so, se fai una schifezza non è che dici ah ok, ne faccio due così diventa meno una schifezza, cioè rimane una schifezza, cioè, sarebbe il caso forse di smetterla di avere, no, valletti, sì, veline, basta, e quant'altro, basta. Cioè, anche perché poi voglio dire, io adesso non guardo la televisione, ma cioè, quando sono a casa di mia madre che ha sempre la televisione accesa, non vedo altro comunque che veline, vallette eccetera. Cioè, è spaventoso. Se mi provocate su questo tema, parlo per un'altra ora. Possiamo fare una trasmissione intera su questo, sì, una di queste, una volta che non abbiamo ospiti. No, però voi siete pronti e mi racconterete voi come sarà andato questo Sanremo. Ah sì, perché non lo guarderai lo stesso? No, io sei sciopero. Allergica a Sanremo. Io sciopero televisione, Sanremo, tutto quanto, poi intrattengo conversazioni a riguardo e apprendo da chi l'ha visto. No, un artista che stimo molto a Sanremo quest'anno è Giovanni Truppi, che l'ho scoperto da poco, ma mi piace davvero, ha fatto che fra un l'altro, disco che fra l'altro è amico di Aldo Giannotti, Aldo Giannotti è un artista che aveva fatto l'anno scorso la personale al Mambo e che avevamo intervistato qua a Coxo Spaziale, e Gianni Truppi era venuto a suonare al Mambo. Ma dai, sì, veramente? Sì, sì. Sì, sì. Era... infatti anch'io sono curioso di sentire lui. Ma sì, preferisco in verità il primo tempo, mi piace di più, essendo cantautore, vabbè, secondo me certo. Di più, no, infatti però... naturalmente sì. ti faccio promettere che che quando esce il tuo disco, che sarà il tuo primo disco? Sì, okay. Il mio primo disco. Cioè, voglio dire, quando esce? No, ancora non l'ho pensato la data, ma perché devo registrare, vado a registrare le ultime due canzoni, due tre pezzi. Le ultime due canzoni ormai è fatta, ormai è in uscita, ormai praticamente. Fatto sta che anzi, se siamo già in primavera che le ultime cose di Covid sono andate, direi. Sì, io penso sì, verso la primavera. Ma tu suoni la chitarra? Sì, io canto. Allora, sono stato batterista rock 10 anni, mm-hmm, e ho studiato batteria, ho fatto batteria un sacco di concerti. Poi dopo ho scoperto Jeff Buckley. Ok, sì, certo. E volevo cantare come lui, non canto assolutamente come lui perché ha una voce straordinaria. Però lui, quel suo modo di cantare così coinvolgente, così mi ha scioccato, e poi scrivo anche poesie, quindi da là ho iniziato a scrivere canzoni, a mettere insieme poesia e musica. Non fare il modesto, sta per uscire il tuo album, insomma. e quando è uscito, verrai a presentarlo a Coxo Spaziale. Ah, volentieri. Sì, assolutamente. E dunque, cos'altro ci racconti di... Cioè, nel senso, prima dicevi che tutta la tua famiglia ha fatto qualcosa di musicale, no? Ah, tu hai fatto un po' di batteria E adesso sei fermato sulla chitarra. Poi ho iniziato questo percorso da... Ma tuo nonno costruiva anche gli strumenti? No, mio padre. Tuo padre, costruisce chitarre, Anche tu hai costruito una tua chitarra? No, non sono capace. Mio padre è ingegnere, poi c'ha questo dono della manualità artigianale, quindi io invece no, su questo hai preso, ho preso altre passioni, altri. Infatti sono molto grato alla mia famiglia, perché veramente la musica è una parte fondamentale sia di Arte Migrante, appunto, che per me è una scelta di vita, umana e anche artistica. Però veramente la musica è stata fondamentale, e ringrazio molto la mia famiglia per questo. C'ho anche una zia romanziera che è anche pittrice, acquarellista. Ho diversi parenti. Potresti portarli tutti in trasmissione una volta, riempiamo lo studio e ognuno ci racconta quello che fa. Sarebbe bellissimo. Senti, ma invece questa cosa di Arte Migrante ti è nata dal tuo punto di vista più antropologo o più musicale? Cioè, qual è stata, diciamo, la spinta che ti ha portato verso questo progetto? Era una curiosità. Ma anche la fede c'entra. Io sono molto cristiano, e il mio percorso proprio spirituale, personale, anche mi ha portato a quello, forse è stata la cosa più importante. Poi ci tengo a dire che Arte Migrante non è cristiana né buddista né musulmana, anzi è tutto questo. C'è chi è ateo, ognuno ha il suo credo, e questa è una grandissima ricchezza. Però se proprio devo parlare di scelte personali, sicuramente il mio cammino cristiano mi ha influenzato molto, sul scegliere Arte Migrante come impegno sociale di giustizia. Però anche anche la passione per l'antropologia, per l'incontro tra culture e per la musica, appunto. Sicuramente è stato un mix di tante passioni e interessi. La musica, che genere fai? Faccio cantautorato. No, faccio un cantautorato moderno. Poi, ma canti in italiano o in inglese? In italiano. Sì, mi piace molto la poetica italiana, la poesia italiana. Sono appassionato anche di poesia e cerco, appunto. Poi è un cammino artistico, nel senso. Quindi cerco di fare cantautorato, chissà se mi riesce bene. Un titolo di una canzone, sono curiosa di saperlo. Dovrei far uscire intorno al 20 febbraio una canzone, si chiama Umani. Vedi quante cose escono. Comunque, lui faceva il modesto prima e su un'altra canzone il 20 febbraio, il nuovo disco quest'anno. Concerto previsto per quando? No, purtroppo non ho tante energie, sia la vita lavorativa che Arte Migranti mi prendono molte energie, quindi a livello artistico purtroppo non dedico troppo tempo. Vorrei dedicare più tempo, diciamo, alla mia vita artistica, ma... Quindi 20 speriamo. Febbraio, comunque, Umani. Intorno al 20 febbraio uscirà Umani. E quindi su Facebook mettete mi piace a Carturan, la pagina Carturan. Io non ho Facebook, però. Io sì, vado. Comunque, però metto mi piace su radio, su Coxo Spaziale. Però ti devi installare TikTok, però. Non hai Facebook, però TikTok, sì. Dai. Guarda, lo farei soltanto per vedere il nostro come jingle. Si chiama video jingle, come si dice quel il nostro TikTok esatto. Che è una specie di GIF, un video è un mini con video. Audio, senza audio. Tu ce l'hai TikTok? No, non ce l'ho, infatti sono un po' arretrato, mi sento già vecchio. Mia cugina di 14 anni ce l'ha e si guardava tutte un sacco di balli, canzoni, cose. Io non ci capisco tanto, ti devo dire, confesso. Sono un po' più per vecchio stile, si può dire. Si può dire che sei vecchio stile. No, io invece a me, devo dire, TikTok, ho trovato Little Green, quella che abbiamo sentito la settimana scorsa, l'ho trovata su TikTok. Tra altre cose me la sono ascoltata, non è male quel disco. Mi è piaciuto molto, molto, molto, molto. Tu conosci Little Green? No, non la conosco. Non te la posso far sentire perché non sono pronto per fartela sentire. devi di ascoltare la puntata della settimana scorsa, sì, che trovi su coxospaziale.blogspot.com. Okay, sì, grande. No, è una super in gamba. A parte che c'ha un timbro di voce bellissimo. Fantastico, fantastico. Sì, sì, ma anche il genere musicale, come si definisce quel genere? Un po' gestato, un po' bossa nova. Sì, esatto. Bossa nova pop. Esatto. Bossa nova pop. Molto carino, sì, sì, mi piace, ti rilassa. Un po' tipo Nora Jones, non lo so. No, vabbè. No, quello basta andare, però Nora Jones. No, però Nora Jones mi piace un sacco, perché posso dire. No, Jones è fantastica, anche lei. Sì, sì, sì. Nora Jones. E dunque chi è il tuo cantautore preferito? A me piace molto Vasco Brondi, proprio tanto, sì. Vasco Brondi. Le luci della centrale elettrica, adesso si chiama Vasco Brondi, però è sempre lui. È sempre lui. Sì, per me è anche, vabbè, anche Mannarino, non posso dire che è un altro grande artista. Niccolò Fabi. Te mi sai che sei giovane comunque. No, vabbè, poi è ovvio che abbiamo una scuola di cantatori pazzesca, da De Andrea, dalla De Gregorio. Ho scoperto da poco, tra l'altro, chiedo scusa a tutti, ma al mondo. Battiato. Hai scoperto da poco? No, nel senso, no, lo conoscevo, però adesso lo però sto studiando. Però ti faccio cagare adesso invece. No. Giustamente. Lo però non l'ho mai approfondito, diciamo, lo sto riscoprendo adesso. Battiato adoro. Io sono andata a sentirlo con mio padre all'Arena di Verona, Battiato. No, devo dire che lui è da studiare, perché sì, è da soprattutto studiare, i primi dischi sono complicati. No, intendevo quello, ovvio che certo. È impossibile non conoscerlo. Però... No, è possibile non sentirti giudicato per questo. assolutamente possibile, assolutamente possibile. Irigheira? No. Irigheira? Irigheira? Fantastico. Ci hai messo in crisi. Io ho messo in crisi tutti e due, fantastico. È bellissima questa cosa. Andatevi a cercare i Irigheira. Sappiate che tutti, cioè dai 40 anni in su, tutti gli altri staranno ridendo come dei matti, perché erano un gruppazzo. Di Bologna? No, ma che di Bologna? Erano tipo primi a Sanremo, hanno fatto dei tormentoni che hanno venduto 25 milioni di copie, tipo Vamos alla Playa. Cioè, li avrete sentiti di sicuro, capito? No. Però stiamo parlando di... stiamo parlando di 20 anni dopo, per cui... Comunque è bello così, dai. Non saprei neanche come scriverlo, lo sto cercando adesso. Si scrive proprio come si legge, Irigheira. Irigheira. Detto questo, il nostro tempo è finito, per cui ci dobbiamo salutare all'ombra dei Irigheira. Io ti ringrazio tantissimo, Tommaso. Naturalmente non si può, perché non abbiamo una console così veloce, cioè tempo che trovo il pezzo dei Irigheira è passato un quarto d'ora. E dunque invece vi saluto con le parole del direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Al solito io ero Stefano W. Pasquini e tu? Mia di Suppiei, giusto per abbreviare anch'io. Ah sì? Non ti metti il doppio cognome? Daschio, Mia Daschio Suppiei. È difficile. Ringraziamo Tommaso Carturan. Davvero grazie a voi. Grazie a te e grazie alla tua iniziativa fantastica, Laboratori Migranti. Naturalmente noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, sempre dalle 19 alle 20 su Cox Spaziale. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao. What am I supposed to do now?